tuoi pensieri scivolare ancora. Tu tra la gente che non sogna sei sola in un mondo di poesia. Ti lascerò il mio regalo più bello, pensieri, la mia anima è quello che ti nascondo un po'. Tu corri forte e non ti volti indietro, sei come un fiore con il suo segreto. Mi guardi e mi dici che hai un sogno pronto per me. Fatta di luce tu, splendido sole tu, non farmi svegliare ancora. Tu mi parli del mare tu, un'onda di pace tu, sei pronta a guarirmi ancora. Che andranno a morire, invece tu vivrai per sempre nel cuore di un mondo di poesia. Di questo mondo tu sei schiava e padrona, sei come l'alba che abbraccia l'aurora. Tu corri forte e mi sussurri un bacio, stringi la mano e non ti volti indietro, e mi guardi e mi dici che hai un sogno tutto per me. Tu, fatta di luce, tu, splendido sogno, tu, non farmi svegliare ancora. Tu sei pronta a guarirmi ancora. Thank you.